finalmente arrivata. La campanella è da un po' che è suonata. Come si dice, meglio tardi che mai, e non aspettavamo altro che lei. Per quale motivo, voi chiederete? Ma perché Febe? Voi lo sapete, diffonde intorno e fuori e dentro le scene un che di equilibrio, brio e ogni bene. Era d'obbligo a questo punto portare in musica quel poco, quel tanto che di lei rimane nella mente di chi come me dice quello che sente. Come me.